ferirmi coi ricordi, tirare a fare tardi quando la notte muore. Mi piace vagare tra balordi e fingermi di essere come loro. A volte canto canzoni ai sordi, mi nutro di rimpianti e pezzi del mio cuore. Mi piace sfidare notti buie e tutti gli incubi che affollano i miei sogni. Qui nel mio lato oscuro, contraddizioni che non ho sconfitto mai. Qui nel mio lato oscuro continuano a combatter dentro me. Qui nel mio lato oscuro, contraddizioni che non ho sconfitto mai. Qui nel mio lato oscuro continuano a combatter dentro me. Mi piace dimenticare la mia età, ignoro le convenzioni e ci tengo un prigionieri. Mi piace scrivere storie strampalate, ubriacarmi di parole e far finta di essere saggio. Mi piace vedere lo stupore quando dico che l'amore è solo un'utopia. Mi piace fuggire via lontano quando tutto si riduce ad un anello, a un dito. Qui nel mio lato oscuro, contraddizioni che non ho sconfitto mai. Qui nel mio lato oscuro continuano a combatter dentro me. Qui nel mio lato oscuro, contraddizioni che non ho sconfitto mai. Qui nel mio lato oscuro continuano a combatter dentro me.